carica sotto la spiga, la via, da... avresti preferito fra questo è io so che questo qui era mangi e non sono venuto da fastidio il mio servizio prego come vedete oddio vai ora stiamo te ma sono te io ne ho zero forse è parecchia. Salgo de Barcelona y he cogido por pues, el 58 para arriba, el Col de Moncada. Pues eso serían pues la pues 20 y 20, 22 y alto, que iba llena completamente. O sea, como viajé este julio no lo encuentro lógica. Hace 7 la semana pasada, de 5 días, 3, hubo colapsos. Pero por accidente quede más, ¿eh? Pero igual me da muchísimo coche, pero me voy a attenzione 10, c'è qualcuno.